Posso fare una domanda? Sì, io vorrei, avrei tre domande. Uno, secondo voi, le vostre esperienze, la questora, quanto incide l'emulazione? La seconda è il ruolo dei media, che spesso, per quanto si tratta di femminicidio, raccontano le storie, e quanto mancano per un ruolo più importante a livello di sociale o di supporto, insomma. La terza è proprio per lei personalmente, come ideatrice del protocollo, perché Zeus? Allora, inizio dalla terza, perché Zeus è l'archetipo di maltrattarsi, lui non ha avuto pietà per le altre dee dell'Olimpo, e le ha maltrattate tutte. Okay. Abbiamo pensato che, siccome lui era, perché di Adamo non c'è traccia, insomma, sia stato maltrattante, ma di Zeus la storia ce lo insegna. Okay. Per cui abbiamo pensato Zeus, proprio vogliamo incidere, andare proprio all'inizio, proprio perché questo inizio deve coincidere con la fine, auguriamo. Okay. Certo. E poi sono assolutamente d'accordo con lei, dovremmo fare un dibattito e un convegno ad hoc. Il problema dei mass media è serio, e noi ci confrontiamo giornalmente. Il rischio di emulazione, a mio avviso, esiste, perché ormai siamo tutti alla ricerca, la cronaca è alla ricerca del particolare accattivante. Anziché dare la notizia corretta e completa, cerca l'aspetto sensazionalistico, dimenticando che è inutile. Ad esempio, titoli uccisa per il troppo amore, uomini che amano troppo, ma dov'è l'amore? Non esiste amore, quando si ama si rispetta, ricordatelo ragazze, se un uomo non vi rispetta, non vi ama, quindi nessuno può ammazzare per troppo amore, si ammazza soltanto perché l'uomo ritiene che la donna sia un possesso, una proprietà. E quindi queste cronache esasperate ed esasperanti e scorrette nei termini, e si concentrano su aspetti, diciamo, allarmistici, senza dire quello che invece serve che venga detto molto spesso. Ecco, quello è veramente un problema. Grazie. Proprio in relazione al linguaggio usato dai media, stiamo organizzando, è proprio partita da pochi giorni, l'organizzazione di un convegno, tavola rotonda, sul linguaggio usato dai giornalisti sui giornali, al telegiornale, sia scritto che a quale anno. Di qual sindaco sarà una notizia subito, perché non è che erano ancora tutti permessi, e sarà il 16 di marzo sul linguaggio, e pensiamo di portare delle persone importanti che vengano a parlare di questa cosa, quindi seguiteci e venite poi a sentirlo. Grazie Presidente per tutto il lavoro che fa con tutti i professionisti, perché è vasto, la tematica è vasta, è fondamentale anche la comunicazione, che non sempre avviene in maniera consona, corretta, anche nel rispetto proprio delle vittime. Se non ci sono altri interventi, qualcuno vuole dire ancora qualcosa, c'è qualche curiosità, domanda, però diciamo che vi abbiamo messo abbastanza, diciamo, tutta la prova. Ecco. Se posso io? Sì. Mi permette, ma meno di un minuto. Meno di un minuto, giuro, visto questa durata. Io volevo solo portare un ringraziamento, saluto prima ancora, ringraziamento da parte di un'associazione di avvocati, psicologi fondamentalmente, che è ONGIF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, che è un'associazione che si occupa di divulgazione e studio nell'ambito del diritto di famiglia, e tra le tematiche che trattiamo c'è quello della violenza di genere. ringraziamento che porto insieme all'avvocata Caprino, che è anche vice presidente Condif Savona. Ringraziamento al Comune di Roano, perché parlare di violenza è già contrastare la violenza, quindi grazie per questo, l'avvocato e la persona ancora prima. Alla Questura, che lo dico anche ai ragazzi qua, è un punto di riferimento nazionale, partecipa sempre anche alle nostre iniziative e convegni, ringrazio davvero la dottoressa Simone, perché la Questura di Savona è un punto di riferimento nazionale davvero sul tema della violenza di genere. E ovviamente il Centro Antiviolenza Antemisa Gentileschi, le volontarie e le professioniste che si occupano dell'attività del centro. E un'ultima cosa, se posso dire ai ragazzi, mi preme dire questo, il linguaggio è un tema importante per questo, l'ha detto anche la dottoressa Simone, il femminicidio, la punta dell'iceberg di situazioni precedenti molto gravi, che apparentemente non lo sono, lo spintone, l'insulto, lo sminuire, stai zitta, tutto questo poi può portare a conseguenze molto più gravi. Quindi attenzione anche agli epiteti che tutti noi magari usiamo in modo involontario. Sono quasi tutti declinati al femminile, fate caso, anche quello è un segno di disprezzo, secondo me è veramente di un atteggiamento che vede la donna in modo molto deteriore. Quindi parliamo delle cose piccole per evitare poi veramente conseguenze molto molto più gravi. Tutto qua, grazie, scusate. Della sala, che ho l'onore e il piacere di concludere con lei, signor Questore, per salutarvi, per ringraziarvi di aver resistito anche, insomma, perché non è un bel impegno sabato mattina, quindi mi fa piacere che sia stato molto sentito. Ringrazio in primis i docenti dell'Istituto Falcone per il loro impegno, il loro enorme lavoro, quindi vi invito anche a seguire, ad ascoltare la mostra itinerante che potrete vedere in sala del mosaico e la mostra di video arte del critico d'arte russo che ci ha permesso gratuitamente di esporre delle opere d'arte importantissime attraverso una videoproiezione. Noi vi ringraziamo e vi invitiamo a seguire gli appuntamenti prossimi del Centro Antiviolenza Artemisia. Grazie a tutti. E insieme si può. Andiamo avanti, schiena dritta. Mi raccomando, ragazze, noi ce la mettiamo tutta. Vi consegneremo un futuro, diciamo il futuro migliore possibile. A voi però consegniamo il testimone per debellarla, basta. Vogliamo essere l'uguaglianza, semplicemente che sia naturale tra uomini e donne, rispetto reciproco. Grazie. Grazie Questore, per sulla disponibilità, so che lei è della Polizia di Gravidice, è sempre presente alle nostre iniziative, grazie. Voglio ribadire una cosa, come ha detto, importantissimo il gioco di squadra, se tutti da attorno alla stessa parte, avremo una speranza, ma avere speranza deve avere la sala piena di ragazzi, questo sì. E ringrazio il professore del Falcone per avere ragazzi questo insieme che sicuramente ci accoglierà. Grazie. Grazie. Un ringraziamento alla Volta Casa per aver accolto tutta questa iniziativa. Grazie.